diciamo che il progetto vuole raccontare le storie di donne che fanno lavori di cura, quindi per esempio OS, badanti, babysitter, raccontandole attraverso i loro corpi, le loro parole, i volti, i gesti, perché pensiamo che siano le persone che meglio possano raccontare che cos'è la cura e di quale cura abbiamo bisogno oggi, che poi è, penso, appunto il tema che in questo momento interessa o ci dovrebbe interessare tutti in modo molto forte, e raccontando ovviamente magari anche, cioè, soprattutto quello che manca, i desideri che ci sono, le difficoltà e le contraddizioni, ma anche gli intrecci che caratterizzano il lavoro di cura e la cura più in generale. Certo, a proposito di contraddizioni, mi ha colpito molto nella presentazione del vostro lavoro anche questa sorta di paradosso per cui le persone sono soprattutto donne, e questo magari è una tematica su cui più ci arriviamo, che magari assistono persone e hanno più patologie delle persone che assistono, oppure una delle donne che raccontate fa la babysitter ma non vede i propri figli da 10 anni, quindi insomma è un lavoro di cura però da cui però sono escluse. Esattamente, il progetto infatti nasce da un altro progetto, che è un progetto teatrale a cui io, che sono un'autrice teatrale tiziana, stavo lavorando, che si chiama Sindrome Italia, che in realtà è un fenomeno medico-sociale legato più alle donne dell'est che vengono a fare le badanti o le babysitter o le colf in Italia e che stanno da noi per tanto tempo, 10-15 anni, prendendosi cura dei nostri cari, bambini o anziani, e allo stesso tempo però trascurando se stesse, quindi il loro corpo, ma anche le persone care che rimangono lontane da loro, che lasciano nel loro paese. E per quanto riguarda quello che dicevi tu, appunto tu hai citato proprio la storia di Galia, che è una delle nostre protagoniste del film, e che peraltro apre il film con un urlo molto forte, che in realtà è l'urlo che Galia ci racconta nel film, che è l'urlo che lei fa ogni mattina prima di andare a lavorare. All'alba lei si reca davanti alla statua di una Madonnina per pregare, e lei urla perché ha bisogno di sfogarsi prima di iniziare a lavorare, di iniziare a curare, a prendersi cura degli altri. Quell'urlo di Galia è uno sfogo, ma è anche in qualche modo la cura di se stessa, cura che lei non può fare in altro modo, perché banalmente non ha il tempo di farlo. Certo. Ecco, a proposito del tema della cura, movimenti appunto intersezionali, come Non Una di Meno, sottolineano come questo tipo di lavori vedano innanzitutto una grossissima sproporzione di genere, ma poi anche una razzializzazione, appunto, di lavori che vengono affidati a persone straniere nel nostro paese. Questi aspetti emergono nella ricerca che avete fatto per arrivare al documentario? Ma sicuramente, diciamo che sono imprescindibili, appunto già nella presentazione del film, e come filtro noi abbiamo messo come prima cosa il fatto che siano donne che fanno lavoro di cura, proprio perché sappiamo, lo dice appunto tutta l'attivismo e la politica intersezionale, secondo me è difficile negarlo, che c'è una richiesta differente rivolta alle donne rispetto alla cura, cioè c'è l'aspettativa che le donne la elargiscano sempre in ogni caso, e che quasi, non so come dire, sia una risorsa inesauribile che parte da loro e che va rivolta e che sostiene poi la società. E in questo ovviamente anche la tematica di classe e di razzializzazione, di provenienza, ha ovviamente degli intrecci fortissimi, e non si può negarlo, perché appunto abbiamo incontrato anche donne italiane che fanno le badanti, che hanno delle storie molto, molto forti, molto complesse, molto dure, che riguardano la precarizzazione del lavoro, appunto il fatto di soffrire di patologie ma di non avere, non avendo mai avuto un contratto, la possibilità di avere una pensione, di vedere riconosciuta la propria invalidità o di avere modo di curarla. Però non vivono l'allontanamento dalle famiglie, il razzismo di fondo, che poi sappiamo in queste giornate su altri fronti lo stiamo vedendo costantemente, il razzismo di cui l'Italia e tutta l'Europa poi possiamo dire è imbevuta, impermeata, quindi sicuramente questo emerge ed era, cioè, è quasi impossibile non farlo emergere, perché è proprio all'interno di questo discorso di base, non si può ignorare, ecco. Ecco, io volevo fare un'altra domanda sempre sul tema della cura, rispetto a un altro progetto dedicato al tema della cura che è nato anche questo in pandemia, sto pensando al manifesto della cura del The Care Collective, che problematizza anche in quel caso molto il discorso della cura e sottolinea anche come, cioè, oltre a tutta la tematica della femminilizzazione del lavoro, del fatto che il lavoro di cura venga, diciamo, in qualche modo assegnato alle donne, in molti casi, come dicevi, considerato anche in qualche modo dovuto, ma sottolinea anche come ci sia un disconoscimento del valore della cura nella nostra società, sia a livello, diciamo, lavorativo, quindi proprio di riconoscimento e di inquadramento lavorativo, ma anche in senso più ampio, diciamo, in termini proprio capitalistici, ci sia appunto la famiglia come unico luogo della cura. E poi manchi in qualche modo quella che nel manifesto viene definita una politica dell'interdipendenza. E quindi volevo chiedervi anche un po', cioè anche rispetto a questo, che cosa emerge nel documentario su questo tema. Ma allora, sicuramente da un lato, come dici giustamente, la svalutazione di tutto l'ambito della cura, cioè non è un ambito, non so come dire, la cui funzione ci è stata mostrata poi dalla pandemia in modo particolare, è fondamentale, si è fermato tutto, abbiamo potuto fermare, cioè si è deciso di fermare le fabbriche, giustamente di fermare tutta la cosa, la cura non si è potuta fermare, eppure appunto sono i lavori più precari e sono anche... c'è tutta una componente, il manifesto della cura, ma l'attivismo femminista lo dice in varie forme da anni, da decenni, tutto il lavoro di cura domestico non salariato, non gestito da contratti, non viene considerato lavoro. E se posso aggiungere una cosa, cioè lo racconteremo anche lì, viene fuori dal mettere a fianco le singole storie, perché poi appunto tutte queste donne che fanno lavori di cura hanno altri ambiti su cui generano cura, hanno dei genitori, hanno dei figli, che anche nella distanza c'è una forma di cura, o proprio anche poi la mancanza della possibilità di curare genera un malessere quasi insanabile, quindi o l'interdipendenza, appunto, come si dice, le contraddizioni e l'interdipendenza, secondo me, sono due concetti molto legati. Molte di queste donne, o anche, diciamo, di donne che abbiamo incontrato in questo percorso, che oggi hanno bisogno di cura, hanno dato cura, e con possibilità e con modalità che sono state anche costose nei termini di, ovviamente, risorse, diciamo, personali, di fatica, di sofferenza, ma è sempre, cioè non esiste persona al mondo che sia solo datrice di cura o sia solo ricevente. E questo, secondo me, è bene ricordarlo, perché poi è un tema che molto spesso invece c'è proprio la dicotomia: chi riceve cura, chi dà cura, e non invece che naturalmente dovrebbe essere un intreccio e quasi un cerchio, una spirale di continuare a dare e ricevere. E l'altra cosa che emerge nelle varie storie è che non è una risorsa inesauribile, cioè non so come dire, viene data un po' per scontato che vabbè, ti prendi cura, se non hai tempo di ricaricare quell'energia non ce l'hai più da dare e vai a farti male sostanzialmente. Certo, ecco, il documentario si può sostenere attraverso un crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe, e appunto vi serve ovviamente perché è una produzione, diciamo così, come anche nello stile di SMK Video Factory, in cui tenete al coinvolgimento della comunità. Assolutamente, è un progetto che chiaramente riguarda tutti e tutte, perché la cura è un tema che riguarda tutte. Peraltro noi stiamo girando anche l'Italia un po' per raccogliere ancora storie di donne che si prendono cura e che della cura hanno bisogno, e lo stiamo facendo anche attraverso alcuni laboratori teatrali in cui andiamo a scardinare le tematiche che riguardano la cura, e ci stiamo rendendo conto che, come diceva anche prima Teresa, società c'è questa interdipendenza, quindi molte persone, la cura appartiene a tutte e tutti noi, e quindi ci siamo dette proviamo a anche a coinvolgere le comunità che stiamo incontrando, non solo nel ragionare attorno ai temi della cura, ma anche a sostenerle praticamente, e in questo caso sostenere il progetto, che è un progetto artistico, con un piccolo contributo. E devo dire che stiamo ricevendo sempre abbastanza consensi, ecco, da questo punto di vista, perché sempre più persone vogliono, desiderano e hanno bisogno di raccontare, di parlare di cura.